amor. Vale. samale, ama samale samale, sa sa. E samale, ama samale samale, sa sa. E tonga tonga e, e tonga tonga e, tonga ligeto. Ama samale samale, sa sa. E samale, ama samale samale, sa sa. E samale, ama samale samale, sa sa. E masa se calipile, masa se calipile, masa se calipile, masa se calipile.